ma domandare cosa sogno. E che manco saccio come mi chiamo. Saccio solo sta storia. E Caid erano marinai. Mi contò che assettato era. E quasi quasi si stava addormiscendo. E che un sole forte era. E capa fame stava sparendo. E mentre stava, un sguardo perso dentro mare, Aracia Aracio mi contò che qualcosa avete spuntato. Terra! Terra! Terra si mise a gridare e disse: chiede a Sicilia, l'oro circondato do mare. Era china riverte, di colura veria e non finte. In mucca si sentiva già il suo sapore. E no, picchiava la fame. O forse pure. Ma soprattutto risse, da quell'occhio si poteva mangiare. E oltretutto a chissi, mi poteva solo fare spennare. Iddo che era messo male, ma proprio male. A di tre punte, vedeva la soluzione che stava a cercare. Ma in d'anticchia di tragitto, la soluzione diventò miraggio. A Sicilia c'era, ma era solo un punto di passaggio. Un penno centrale se ne fottia. Mangiava e diceva che chi sonni era una storia vera. Un marinaio a malincuore non vi la soluzione. Si ne scappa. Perché sì, va bene in colura. Sì, va bene un sciavolo. Non c'è soluzione. Perché di colura erano i frutti che sono stati rovinati dal tempo da gente come te che se ne fotte. Ma non tutti sono come a due marinai. C'è chi nasce e c'è chi muore in un'isola pure sulla pista lontana. Il mio nome è Vito Fiorino, ma puoi anche chiamarmi Five. Terronia volume 1.